È partito tutto da una situazione criticissima di una nostra collega che aveva la famiglia bloccata in Ucraina senza riuscire ad uscire dall'Ucraina. Bloccata perché è una famiglia con due bambini molto piccoli, 3 mesi, una bambina di 6 anni, un marito di cui non si sapeva se poteva uscire o meno. E quindi era letteralmente impossibilitata a muoversi, per cui è stato deciso di farsene carico. Siamo partiti, quindi abbiamo organizzato una missione aggiungendo a questo obiettivo, cioè il recupero di questa famiglia, di questi bambini, altri due obiettivi, che era quello di portare del materiale di prima necessità e riportare poi in Italia altri profughi che avremmo trovato sul posto. Quindi siete andati al confine, che situazione avete trovato? La delicatezza dell'operazione è che noi dovevamo oltrepassare ad operare in territorio ucraino. La scelta è stata quella di entrare dal confine ungherese di Zaoni. La scelta dei confini è legata ai profughi che scelgono di uscire dal confine più prossimo, perché il problema è all'interno dell'Ucraina, estreme difficoltà a muoversi, carenza di carburante, i collegamenti ferroviari che ci sono e non ci sono, quando ci sono super affollati. Questa famiglia ha viaggiato 5 giorni all'interno dell'Ucraina, ci ha messo 2 giorni per prendere un treno perché continuava a non riuscire a salire sul treno. Quindi loro hanno cercato logisticamente, l'abbiamo impostata con un loro avvicinamento presso il confine ungherese e noi un avvicinamento progressivo nei loro confronti, fissando poi un punto di incontro per recuperarli. Il confine ungherese di Zaoni è meno frequentato dei confini polacchi, quindi c'è un transito relativamente tranquillo in ingresso in Ucraina. Certo, va documentato, devi indicare gli obiettivi, la serie dei nominativi, eccetera, e poi, come dalle altre parti, delle file enormi per uscire dall'Ucraina. Per i propri ucraini ci sono 3 tappe. La prima è raggiungere il confine più vicino, la seconda è la gestione alla frontiera, il terzo poi è la partenza su un paese europeo. La grossa criticità è all'interno, non riescono a raggiungere i confini. Tutti sappiamo, adesso escono donne e bambini, diritto sacrosanto. Diventa però impossibile il paradosso, perché famiglie numerose, mandar fuori famiglie con le sole donne, con tanti bambini, è impossibile o estremamente difficile. La prima famiglia che abbiamo incontrato, 2 gemelli di 3 mesi, una bambina di 6 anni, un trolley, la donna a 2 mani, non riusciva neanche a portare 2 bambini. Come puoi pensare di salire su un treno con migliaia di persone? Hanno fatto 1800 chilometri in quelle condizioni. Per cui questo diritto, che tutti quanti riconosciamo, diventa poi una difficoltà. E infatti le ansie, le paure, il terrore di questa famiglia era di non riuscire ad avere con sé il marito, che è proprio essenziale per organizzare la fuga. L'altro problema è che ovviamente le normative, le leggi esistono, però non sai fino a che punto sono ancora valide. C'era una legge che prevedeva che potesse uscire il capo famiglia di famiglie numerose intese con almeno 3 figli. Questo però era messo in dubbio, per cui a gente che sta vivendo un trauma particolare, concentrato in pochi giorni, si assomma tutta questa impossibilità di pianificare, di sapere, di conoscere. Posso o non posso muovere? Mi fermano o non mi fermano? Sto andando verso l'Europa o sto andando verso il fermo e l'invio al fronte? Abbiamo incontrato parecchia gente scioccata da questo trauma. Per chi è operativo, lavorare con gente che è sotto shock significa che fa fatica ad avere anche comportamenti più scontati. Organizziamo il carico di persone, ci diamo un appuntamento, fra 3 ore al tal posto, 3 ore diventano troppe, al terrore non ci sta, e hai voglia tu di spiegargli, ma guarda, hai viaggiato 5 giorni, aspetta, fra 3 ore siamo lì, diventa un'enormità, non le trovi più perché sono troppe, l'ansia fa scattare questi meccanismi, per cui diventa, in una situazione complicata, diventa ancora più complicata. Poi ci sono i problemi anche alle frontiere, perché appunto c'è una selezione anche etnica? Io mi sento di dire così, che il tema che appare ed è sotto traccia, ma appare agli occhi che vogliono vederlo, è la discriminazione nei confronti di altri flussi migratori. C'è una apparente apertura per i profughi dell'Ucraina che stanno uscendo, ma ti riporto questa immagine: alla stazione di Zaoni, all'arrivo dei treni provenienti dall'Ucraina diretti a Budapest, vengono selezionati sui treni le persone che dicono non hanno i documenti in regola, concentrati a parte, vediamo anche foto, guarda caso sono tutte persone di colore, di origine asiatica, bengalesi, vengono radunati e poi, se gli altri salgano su dei pullman diretti in Europa, visivamente vedi, questi vengono caricati sul pullman della polizia. Non siamo riusciti a capire, non sono riuscito a farmi dire dove li stessero portando. Sicuramente non venivano portati in Europa. Per me diventa pericoloso parlare di profughi ucraini. Facciamo un discorso di profughi. La politica europea è complice, se non causa, di questa situazione che si è creata in Ucraina. Rispetto al problema profughi non ha trovato assolutamente nessuna soluzione. Famiglie di donne e bambini ritengono di avere lo stesso diritto, arrivano la frontiera loro tornano indietro. Voi queste persone le avete portate poi in Italia? Avevano già una famiglia qui? Noi in questo caso ci eravamo premuniti di conoscere già la destinazione, per cui i nuclei, abbiamo trasportato questo primo nucleo che aveva già una destinazione che era un ricongiungimento familiare in Italia. Abbiamo raccolto altre persone che si distribuivano sull'Italia anche loro con ricongiungimenti familiari. Abbiamo raccolto gruppi che si sono fermati in Veneto e a Imperia. Gli altri sono quelli che devono rientrare nel sistema di accoglienza che l'Italia sta predisponendo, per cui ci deve essere questo, altrimenti sposti solo un problema dall'Ucraina alla frontiera. In Polonia viene risolto con dei campi di accoglienza a quelle temperature, oppure arrivano in Italia e non sanno dove andare. Ci deve essere la filiera completa, altrimenti sposti solo il problema di un po' di chilometri. Cioè noi dobbiamo riuscire a capire per poter essere efficaci. Tu raccogli queste persone, ancora prima di accettare quello che gli stai fornendo, uno, ti vogliono raccontare che cosa sta succedendo, due, ti chiedono di risolvere il problema. Loro stessi sono consapevoli che una volta che tu gli hai dato il passaggio, l'hai trovato il posto, non ha risolto. È una soluzione in una situazione dove non c'è probabilmente un bianco e nero. Per me è difficile, ho resettato alcune convincimenti che avevo, sul posto mi sono reso conto che non è una situazione in cui c'è il bianco e il nero e ti puoi posizionare in una posizione. La guerra invece è una soluzione che ti impone di prendere posizione o per il bianco o per il nero. È difficile utilizzare la guerra per risolvere una situazione che ha delle sfumature.